Buonasera a tutte e tutti per questa puntata di giovedì 20 novembre di Zardins Magnetics, trasmissione realizzata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Questa sera una puntata speciale con una lettura dell'articolo Uomini contro il fuoco di Walter Witz, tratto dalla rivista Disfare, il numero 1 della primavera 2025. Disfare è un bollettino per la lotta contro il mondo guerra. Prima di augurarvi un buon ascolto di questa lettura, vi ricordo che potete inviare critiche, segnalazioni, contributi tramite i nostri contatti, che sono la mail liberetutti@autistiche.org, oppure contatto carta e penna indirizzando il vostro scritto all'associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste. Per riascoltare anche questa puntata e le puntate precedenti ci si può collegare al blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, altrimenti riascoltando l'audio tramite il nostro canale Telegram che si chiama Zardins. Buon ascolto e a risentirci la prossima settimana. Uomini contro il fuoco, per contrastare l'umano rifiuto della guerra e sfruttare le vulnerabilità della mente, tanto dei propri soldati quanto di quelli nemici, la scienza militare ha trovato zelanti collaboratori tra le fila degli psicologi e degli neuroscienziati. Più la nefasta alleanza di scienza e guerra affila i suoi strumenti, più il campo di battaglia e il laboratorio si estendono e si confondono, e le possibilità di ribellarsi ai loro protocolli di morte si fanno sottili. Con la diffusione delle neurotecnologie e la teorizzazione della guerra cognitiva, tutta la società entra in guerra, e il vecchio sogno militare di manovrare la mente di soldati e civili si fa sempre più pericoloso. Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh. Yeah. Si allarga la forbice, non si chiuderà senza qualche collo da torcere. Muovi solo il pollice, ma che con mente complice. Governo di fasci che dice frasi preistoriche. Pensino che basti riempire il vuoto con l'ordine. Figli per i social, nuovo proletariato. Aumentano l'engagement, l'ingaggio, l'inganno. Senza passaggi cruciali, casi umani fanno passaggi da cruciani. Dalle basi ai vertici, tutti i poveri si assomigliano. Tutti i ricchi sono identici, chi potrà proteggervi? Se quei pochi si moltiplicano e si girano gli eserciti, cambia in fretta, credimi, cresce l'odio per i privilegi e sentimento anti-celebrity. Vedo solo debiti, tu che flexi gli orologi, come nel 2016, zona di interesse. Oggi come ieri conta essere efficiente. Chi vuole essere più americano a parte i rapper? Gente di potere sa il potere della gente, sa che chi ha un potere non lo esercita, lo perde. Uomo sotto scrivania di donna presidente, perché è una questione di potere e non di gender. Cattiva intelligenza, influenza, fuck evil mask, ho venduto la Tesla. E una folla assiste, c'è una guerra in background. Ground. Cattive notizie, la tua mente è il playground. Ground. Sembra più vicino a Crash. Così di colpo. Cash. Cash. Cash. Cash. Mille bolle di mina, la bolla fino a finanziaria, la bolla speculativa, yeah. Profeti dei profitti, la bolla matta del clima, finto naturale, una bolla di chirurgia, quella immobiliare, quella della pandemia, dei nuovi padroni di Seattle, le vecchie istituzioni che non contano un cazzo più, di generazioni in letargo, istupiditi dalle bollicine di Vasco, bolla delle AI, dei concerti live, di voglia di cambiare il mondo con i like, di musica ti ingozzi ogni giorno, i morti con due scrolling che li scrolli di dosso, la bolla del presente non vissuto, paura del futuro e il passato come rifugio, tutti zitti in un luogo chiuso, la bolla di ciascuno al sicuro nel suo pertugio, sfatti, tutti che si cagano quando escono dai parti, la puzza di fogna che ha raggiunto i piani alti, ora non c'è più nemmeno l'arte a consolarci, sai che quattro autori scrivono tutti cantanti, bolla dei confini e dell'immigrazione, termini offensivi e libera espressione, sui temi bollenti va in ebollizione, tutti gli ingredienti e le bolle nel pentolone fanno un crash, nessuno reagisce mentre parte il countdown. Ora il tempo stringe, chiudi gli occhi, blackout. Out. Sembra più vicino a crash. Crash. Crash. Crash. Così di colpo. Affari. Crash, crash, crash. Nessuno pensa al domani. Crash, crash, crash. Sei proprio vicino a crash. Crash. L'arma definitiva. Stripe è alla sua prima missione. Gli scarafaggi, creature umanoidi mostruose, hanno saccheggiato un altro villaggio. Il soldato è dotato di una interfaccia neurale, il sistema MAS, al quale il capitano può inviare direttamente tutte le informazioni utili alle operazioni sul campo. La missione va a buon fine. Stripe riesce ad uccidere ben due scarafaggi e viene ricompensato con una dose extra di sogni erotici, programmati dallo psichiatra dell'esercito, trasmessi direttamente al suo sistema MAS. Il dispositivo, però, inizia a dare segni di malfunzionamento. Quando si rompe ulteriormente, durante una successiva missione, Stripe vedrà per la prima volta gli scarafaggi, per quello che sono realmente, esseri umani. Esseri umani a cui il governo sta dando la caccia, in quanto il loro DNA, non perfezionato artificialmente, è portatore di malattie, quoziente intellettivo inferiore e comportamenti devianti. Per facilitarne il genocidio da parte dell'esercito, il sistema MAS li fa apparire come esseri mostruosi, in una forma letterale di disumanizzazione implementata direttamente a livello cerebrale. Out of the ashes of Buenos Aires comes first sorrow, then anger. The only good bug is a dead bug. In Geneva, the Federal Council convenes. We must meet the threat with our valor, our blood, indeed with our very lives, to ensure that human civilization, not insect, dominates this galaxy now and always. Sky Marshal Beans announces plans for an offensive against Clandathalin, source of the bug meteor that destroyed Buenos Aires. Every day, federal scientists are looking for new ways to kill bugs. Your basic arachnid warrior isn't too smart, but you can blow off a limb. It's still 86% combat effective. Here's a tip. Aim for the nerve stem and put it down for good. Would you like to know more? Everyone's doing their part. Are you? The war effort needs your effort. At work, at home, in your community. We now break net and take you live to Fleet Battle Station Ticonderoga, deep inside the arachnid quarantine zone, where the men and women of the Federal Armed Services Prepare to attack. DXQ uplink on 2-1. You're on. No one here in the AQZ knows exactly when the invasion of Klandathu will occur, but everyone's talking about it, and the talk says tomorrow. Here's a bunch of MI kids that look like they could eat bugs for lunch. Yum, yum, yum. So, Trooper, you're not too worried about fighting the arachnids? Hey, shoot a nuke down a bug hole, you got a lot of dead bugs, I just hope it's not over before we get some. Some say the bugs were provoked by the intrusion of humans into their natural habitat, that a live-and-let-live policy is preferable to war with the bugs. Let me tell you something. I'm from Buenos Aires, and I say kill them all! Yeah! Oh, yeah! Yeah! Oh, yeah! Il sistema MAS è la soluzione tecnologica definitiva a un problema annoso del comando militare, la riluttanza dei soldati ad uccidere. Come verrà spiegato a Stripe dallo psichiatra delle truppe, durante la prima guerra mondiale i soldati sparavano in alto sopra le teste dei nemici, mentre durante la seconda solo il 15-20% di loro premeva il grilletto durante uno scontro. Ed è qui che l'episodio della serie TV Black Mirror si collega più esplicitamente con Man Against Fire, il report del 1947 di S.L.A. Marshall, che dà il titolo all'episodio. La stima del 15-20% risale infatti a Marshall, che la ottenne da interviste con i reduci di guerra e la attribuì a una paura dell'aggressione, causata dalla norma sociale che condanna l'omicidio. Il testo di Marshall ebbe una profonda influenza sui molti ufficiali che lo lessero e che negli anni seguenti adattarono l'addestramento militare per ottenere la maggiore aggressività e percentuale di fuoco che vennero dimostrate dai soldati in Corea e Vietnam. Attacchiamo lo stesso. Mancano pochi secondi. Certamente. Dia l'ordine. Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Salaia! Salaia! Oh! la psicologia in guerra. Il lavoro di Marshall è fra gli esempi più famosi di un filone di studi psicologici del primo dopoguerra che per primi si occuparono di analizzare la condotta del singolo soldato, fino ad allora rimasta lontano dai riflettori. Il fiorire della psicologia e delle scienze sociali nel dopoguerra fu infatti legato a doppio filo allo sforzo bellico, che secondo le stime vide la collaborazione di circa un terzo degli studiosi di psicologia statunitensi, inclusi vari luminari del settore. Con il passaggio alla guerra fredda, negli anni 50, quasi tutti i finanziamenti del governo federale statunitense per le scienze sociali provenivano dall'esercito. E il principale finanziatore della ricerca psicologica era l'Office of Naval Research, ufficio per le ricerche navali. A fare da sfondo a questi studi era la guerra in Corea. Caduti prigionieri dell'esercito nemico, molti soldati statunitensi avevano confessato crimini di guerra e in alcuni casi si erano addirittura convertiti al maoismo. La mente del soldato, che non solo lo rendeva inoffensivo sul campo di battaglia, ma poteva addirittura essere sfruttata per portarlo a tradire la patria, rappresentava un anello debole nella catena del comando militare. Basta, soldato italiani! Basta! Basta, soldato italiano! Non si può uccidere così! Tornate indietro! Basta! Stop! Basta! Basta! Basta! Il controllo della mente, ottenuto con qualunque mezzo a disposizione, divenne la prerogativa dell'intelligence atlantica. Per scoprire le misteriose tecniche sovietiche di pervertimento cerebrale, come le definì il direttore della CIA, Allen Dulles, solo il ricorso a metodi inauditi poteva spiegare il tradimento di così tanti giovani patrioti. La CIA incaricò due professori di neurologia, Harold Wolff e Lawrence Hinkle. Harold Wolff, mosso dall'ambizione di capire come la mente umana poteva essere manovrata, eseguì esperimenti in cui tentò di trasformare rifugiati cinesi in agenti americani, rendendoli impermeabili al lavaggio del cervello comunista. La CIA finanziò molti accademici della Ivy League, fra cui ad esempio Ewan Cameron, primo presidente della World Psychiatric Association, il quale sosteneva di poter ridurre la mente del paziente al suo stato infantile per poi riprogrammarla, e i cui esperimenti causarono la morte di un numero sconosciuto di pazienti e provocarono conseguenze drammatiche ai sopravvissuti. Questi esperimenti erano parte di un programma di ricerca top secret intrapreso dalla CIA, il progetto MK-Ultra, secondo il suo direttore, Sidney Gottlieb. Per ottenere il controllo della mente bisognava prima spazzare via la mente esistente, per poi iniettarne una nuova. MK-Ultra era il proseguimento diretto del lavoro iniziato nei campi di concentramento nipponici e nazisti, non solo perché si basava su quegli esperimenti, ma anche perché la CIA fece arrivare negli Stati Uniti proprio i vivisezionisti e i torturatori che avevano lavorato nei campi di concentramento. Anche Henry Murray, pioniere dei test della personalità, ebbe varie collaborazioni con l'esercito e con la CIA. In uno dei suoi esperimenti, Murray misurò la reazione di 21 studenti di Harvard a una situazione volutamente, e a loro insaputa, stressante e umiliante. L'esperimento ebbe un impatto profondo su uno di questi studenti, il giovane Ted Kaczynski, e forse contribuì in parte a fare di lui un uomo contro il fuoco. dalla psicologia alla neuroscienza, il cervello e la macchina. I feroci esperimenti degli anni 50 e 60, al netto della scia di sofferenza e di morte che si lasciarono alle spalle, non condussero a nessun segreto per il controllo della mente, e anche Wolf e Hinkle conclusero che i successi del lavaggio del cervello comunista erano stati ottenuti con metodi piuttosto prosaici. Col passare degli anni, il tentativo di controllare la mente si affidò sempre di più allo studio del cervello, che aveva ricevuto un grosso impulso dallo studio dei traumi cerebrali dei reduci delle guerre della prima metà del Novecento. Il paradigma cibernetico, intanto, profondamente radicato nel matrimonio fra scienza, ingegneria e guerra, sancito nel secondo conflitto mondiale, sfumava il confine fra l'umano e la macchina e influenzava profondamente il modo di pensare il cervello, che da Alan Turing in poi venne sempre più concepito come un calcolatore biologico. Sull'onda di queste idee, nel 1973, Jacques Vidal firma un breve articolo scientifico intitolato «Verso la comunicazione diretta cervello-computer», nel quale immagina un futuro in cui i segnali elettrici del cervello possono essere interpretati come veicoli di informazione e usati per controllare apparati esterni. La DARPA, Agenzia di Ricerca della Difesa statunitense, è entusiasta e di lì a poco finanzia il primo programma di ricerca su un sistema biocibernetico uomo-macchina. Ma i primi veri successi arrivano nel 1999 con un programma che produrrà alcuni dei traguardi più significativi nella ricerca sull'interfaccia neurale. In uno di questi esperimenti, tre scimmie posizionano il cursore sullo schermo di un computer solo tramite la loro attività cerebrale, senza muovere un muscolo. Questi programmi di ricerca, finalizzati a leggere e programmare la mente dei soldati, continueranno negli anni successivi a produrre pietre miliari della ricerca nelle interfacce neurali. La loro ambizione di creare soldati superumani e di trasformare radicalmente non solo l'esercito, ma la società intera, nonostante venga tenuta a margine per dare risalto ai ben progressi per altri scopi medici, non è difficile da intravedere. In uno di questi successi futuristici, nel 2012, una donna completamente paralizzata riesce a controllare col pensiero un braccio robotico per mangiare una barretta di cioccolato. Un anno e mezzo dopo, la sua interfaccia neurale è collegata a un simulatore di volo di F-35 e la DARPA presenta il risultato in una conferenza intitolata Future of War. Well done, Hawks, well done. Also, 20 Mike Bolton, right along those trees. Get the shit out of them. Ma al fine di una completa ibridazione uomo-macchina non è sufficiente leggere il cervello. Il rapporto tra cervello e computer deve essere bidirezionale. Uno dei primi esperimenti in questo senso è probabilmente quello di José Delgado, professore di Yale. Nel 1964 Delgado è in piedi in un'arena da corrida. Di fronte a lui un toro spagnolo. Il toro carica, ma a poco meno di un metro dal professore si ferma, si gira e si allontana. Nel cervello del toro erano stati impiantati degli elettrodi, controllati via radio, che permettevano di interferire coi riflessi motori dell'animale, premendo un bottone. L'esperimento, che ricevette grande attenzione mediatica, era finanziato dal Pentagono. Nel descrivere i risultati, Delgado si disse entusiasta di come, in prospettiva, qualunque funzione del cervello, emozioni, intelletto, personalità, sarebbe stata modificabile dall'esterno. Nel 2002, questa volta, è la DARPA a presentare RoboRat, un ratto che tramite impianti neurali può venire telecomandato da remoto. La DARPA ha finanziato negli anni vari progetti per trasformare in cyborg squali, piccioni, insetti. Ad oggi, gli sforzi della DARPA per integrare in modo bidirezionale i soldati con i sistemi d'arma, ad esempio per il controllo di robot e droni, si concentrano su dispositivi non invasivi o minimamente invasivi, che non richiedono interventi chirurgici, all'interno del programma N3. Quando la guerra diventa cognitiva. Rispetto all'uso militare della neurotecnologia, è difficile tracciare una linea di separazione netta tra la retorica e la realtà. Nonostante la mole degli investimenti, ci sono spesso molti ostacoli fra le dimostrazioni di fattibilità e il dispiegamento effettivo sul campo. Quel che è certo è che la mente è sempre più al centro degli interessi militari. La cosiddetta guerra cognitiva, concetto che indica lo sfruttamento di tecnologia e dei processi cognitivi umani per influenzare, modificare o stravolgere la percezione e le decisioni delle persone, sta acquisendo un ruolo di primo piano nelle agende militari a livello mondiale, dalla NATO alla Cina. In Italia, a fare il punto sulla guerra cognitiva è un report dello Stato Maggiore della Difesa del 2023, realizzato con la collaborazione di vari esperti civili, provenienti dai settori industriale, accademico e della ricerca. Secondo gli autori, le interfacce neurali, anche non invasive, potranno essere usate per leggere i dati del cervello al fine di monitorare la performance cognitiva dei soldati e permettere loro di controllare i sistemi d'arma, per veicolare informazioni direttamente al cervello e infine per scambiare informazioni direttamente fra cervelli tramite stimolazione transcranica, nell'ottica di un rapporto simbiotico fra uomo e macchina e di una ibridazione tra realtà fisica e realtà digitale. L'utilizzo di interfacce neurali implicherebbe però rischi non indifferenti se attori malintenzionati riuscissero a interferire con il loro funzionamento. Il report, nell'affrontare la possibilità di malware, virus informatici, neurali, arriva ad ipotizzare l'hacking cognitivo del soggetto target attraverso l'induzione di una rappresentazione falsata della realtà oggettiva. A parti invertite, quello che accade al soldato Stripe, sottoposto a una visione distorta della realtà dal suo stesso esercito. È il sabotaggio con mezzi di fortuna degli scarafaggi a danneggiare la sua interfaccia neurale, mostrandogli finalmente la realtà per quello che è. Nella classificazione proposta nel report, all'ibridazione uomo-macchina si affiancano altre due modalità, forse meno avveniristiche, ma non per questo meno importanti per intervenire sulla mente umana. La prima è quella dell'influenza, che consiste nell'intervenire sulla mente dall'esterno, tramite strumenti di formazione e persuasione, in ambito digitale, ma non solo. Anche nell'universo distopico del soldato Stripe, la disumanizzazione del nemico, implementata direttamente a livello cerebrale tramite l'interfaccia MAS, coesiste con tecniche di disumanizzazione classiche. Le masse di poveri paesani, infatti, hanno imparato a temere gli scarafaggi sulla base di una propaganda martellante. La seconda è quella dell'interferenza, miglioramento delle abilità cognitive o degradazione delle abilità cognitive del nemico, tramite farmaci o tecniche di stimolazione neurale. Come ha sintetizzato il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in un recente discorso: la mente, nostra militare e di tutti, è diventata ormai parte del campo di battaglia. In questa sussunzione completa della sfera cognitiva umana nel calcolo bellico, il fronte e le retrovie si avvicinano. La dimensione militare e quella civile diventano inseparabili. Il report continua. La sfida di questa nuova frontiera di competizione cognitiva si estende a livello globale, individui, gruppi e comunità, con potenziali impatti dirompenti sia in termini di sicurezza nazionale che di stabilità internazionale, e richiede necessariamente risposte a livello whole of society, società intera. L'ingresso della dimensione cognitiva nella guerra porta in guerra la società. With your guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. With your guns and drums and drums and guns, hurroo, hurroo. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. My darling dear, you look so queer. Johnny, I hardly knew you. Where are your legs that used to run, hurroo, hurroo? Where are your legs that used to run, hurroo, hurroo? Where are your legs that used to run before you left to carry a gun? I fear your dancing days are done. Johnny, I hardly knew you. Your eyes that were so mild, hurroo, hurroo. Where are your eyes that were so mild, hurroo, hurroo. Where are your eyes that were so mild when my heart you did beguile? And why did you run from me in the child? Johnny, I hardly knew you. You haven't an arm, you haven't a leg, hurroo, hurroo. You haven't an arm, you haven't a leg, hurroo, hurroo. You haven't an arm, you haven't a leg. You're an eyeless, boneless, chickenless egg. And you'll have to be put with a bowl to beg. Johnny, I hardly knew you. Out the guns again, hurroo, hurroo. They're rolling out the guns again, hurroo, hurroo. They're rolling out the guns again, but they won't take back our sons again. No, they'll never take back our sons again. Johnny, I'm swearing to you. Nel frattempo, mentre gli eserciti cinese e statunitense testano braccialetti e dispositivi indossabili per monitorare la tenuta psicologica dei combattenti. Sul mercato proliferano interfacce neurali, spesso EEG inseriti in cerchietti, cuffie o auricolari, finalizzati al benessere. In un'evoluzione dei sensori che misurano temperatura e battito cardiaco, questi dispositivi promettono agli utenti che, tracciando il proprio cervello, potranno migliorare la concentrazione, il sonno, la meditazione o la performance negli sport. Il progetto delle Big Tech è rendere questi dispositivi il modo con cui ci interfacciamo quotidianamente con la tecnologia, spingendo l'estrazione di dati oltre ogni frontiera, fino all'interno dei processi cerebrali e mettendo le basi per un tracciamento cerebrale di massa. La conquista di grandi quantità di dati cerebrali spalanca possibilità inedite, il cui impatto potrebbe in poco tempo far impallidire quello di tecnologie come internet o lo smartphone, con conseguenze potenzialmente drammatiche. E l'esproprio di dati non si affida solo alla cessione spontanea e magari entusiasta di chi corre ad acquistare l'ultimo gadget tecnologico. Migliaia di lavoratori vengono già da anni continuamente monitorati nelle oltre 5.000 aziende al mondo che utilizzano SmartCap, un casco da lavoro dotato di sensori EEG in grado di rilevare e segnalare un calo dell'attenzione e il rischio di colpi di sonno. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Nel contesto di queste tecnologie, l'ambito medico, commerciale e militare sono intrecciati in modo inestricabile. Negli anni, svariati progetti di DARPA hanno avuto spin-off aziendali, mentre la ricerca per scopi militari ha spesso potuto capitalizzare decenni di studi a scopo terapeutico. Da una parte, le aziende sanno che i casi di disabilità o malattia grave non sono sufficienti a sostenere i propri profitti, e quindi ambiscono a sviluppare prodotti che possano essere per tutti. Dall'altra, lo sviluppo di tecnologie in ambito commerciale è strategico per il settore della difesa, come sostenuto da Amy Cruz, che ha diretto presso DARPA alcuni dei progetti neurotecnologici più importanti. Per fare un esempio, nel 2016 l'azienda Halo Sport commercializzava un casco con neurostimolazione TDCS, pensato per ottimizzare le prestazioni degli sportivi. Questo prodotto è stato poi testato sui Navy SEALs per massimizzare le loro performance cognitive. Infine, l'azienda è stata acquistata da Flow, una startup che lavora sull'uso della neurostimolazione per trattare la depressione. Come mai? 10 ore di fila. È una macchina. Una tecnologia sviluppata in ambito civile, testata in ambito militare, travasata in ambito medico. Conosco il Kung Fu. Dimostramelo. È un programma d'allenamento. È simile alla realtà programmata di Matrix. Le regole di base sono le stesse, come la gravità. E ricorda che queste regole sono simili a quelle di un sistema di elaborazione dati. Alcune possono essere eluse, altre infrante. Tutto chiaro? Allora colpiscimi, se ci riesci. Conclusione. Grazie al sabotaggio della sua interfaccia neurale ad opera degli scarafaggi, il soldato Stripe si è finalmente reso conto della distorsione della realtà a cui era stato sottoposto. Quando viene catturato dall'esercito, però, è senza scampo. Il sistema MAS, una volta ripristinato, può in un click disattivargli completamente la vista o costringerlo a vedere giorno e notte, a ripetizione, il duplice assassinio compiuto nella prima missione, nella versione originale, in cui a finire sotto le sue coltellate non sono i mostruosi scarafaggi, ma esseri umani come lui. Completamente soggiogato dall'impianto, fin anche nella percezione sensoriale, ogni possibilità di insubordinazione e disesazione è completamente azzerata. Tutta la realtà del soldato Stripe è nelle mani di chi controlla il sistema MAS. Quello che si realizza in Stripe è il traguardo definitivo della lunga alleanza che abbiamo provato a tratteggiare fra scienziati e militari, finalizzata a soggiogare la mente di soldati e popolazioni. Guardando agli attuali teatri di guerra, è però lampante quanto l'irriducibilità della mente umana ai disegni di chi vuole dominarla sia tanto un punto debole per chi prepara la guerra, quanto un possibile punto di forza per chi vi si oppone. Rispetto al fronte ucraino, una massiccia campagna multimediatica è stata in grado di convincere il 70% di ucraini che, nonostante l'evidente inferiorità sul campo, l'esercito di Kiev avrebbe prevalso e di reggimentare i cittadini soldato europei nella produzione bellica e nel sostegno alla guerra. Ciò nonostante, gli atti di deserzione, renitenza e insubordinazione si sono moltiplicati negli ultimi 3 anni, tanto in Ucraina quanto in Russia, in un dilagante rifiuto popolare della guerra che ha il potere materiale di determinare le sorti del conflitto e di arrestare una cortizzazione dell'ostilità potenzialmente fatale per l'umanità tutta. Di che cosa aspetti? Sei più veloce di così. Non pensare di esserlo, convinciti di esserlo. Smettila di provare a colpirmi, colpiscimi! In Palestina, l'esercito sionista, paradigmatico per il livello di indottrinamento suprematista, è in crisi. Non ci posso credere. I soldati non vogliono più andare a morire a Gaza e quelli che sopravvivono sono colpiti da tendenze suicide, depressioni, sindromi post-traumatiche, difficoltà familiari. La disumanizzazione dei palestinesi non è sufficiente a evitare ferite profonde e durature nei soldati, e mentre i cittadini israeliani decidono di disertare il sionismo rinunciando alla cittadinanza, Un movimento internazionale dimostra l'indisponibilità di chi vive in Occidente ad essere complice del genocidio di Gaza e si mobilita per intralciare il supporto politico e materiale che dalle retrovie del fronte atlantico permette e alimenta il massacro. Oggi più che mai, la speranza di sfuggire a una catastrofe planetaria scientificamente organizzata con delirante lucidità dai sacerdoti della potenza è affidata alla capacità di uomini e donne di insorgere contro il fuoco, rifiutando la guerra e opponendosi ai suoi apparati distribuiti su tutto il globo. Il progetto intrinsecamente duale di estendere l'estrazione di fiato al cervello e di influenzarne il funzionamento non potrà che contribuire drammaticamente all'erosione delle zone d'ombra in cui gli ammutinati e i ribelli possono riconoscersi e pianificare la fuga e il contrattacco. Contro i progetti di chi pensa che l'umano sia riducibile a elementi psicologici e neurologici del tutto prevedibili e manipolabili e si propone di manovrarli per i propri scopi, ogni spazio di impenetrabilità e opacità della nostra mente e del nostro cervello sarà un rifugio prezioso. L'estensione del campo di battaglia alla mente implica dichiaratamente l'inizio di una guerra cognitiva permanente condotta in modo preventivo dagli eserciti e dai governi contro le loro stesse popolazioni. Man mano che si moltiplicano i tentativi di influenzare e alterare i nostri processi cognitivi, la nostra capacità di disertare i campi del dominio, tanto al fronte quanto nelle retrovie della guerra globale, sarà sempre più legata a quanto sapremo difendere dalle incursioni nemiche la nostra mente, la nostra interpretazione del mondo, il nostro sentire. Gennaio 2025. Walter Witz. なったら世界中を鋼鉄の塊にしまおうか。 ああ。 そして世界中を錆び腐らせて宇宙の毛屑に返してやろうか。 面白いな。 さあ、俺たちの愛情で世界中を燃え上がらせてやるぜ。 やりまくるぞ。